La Rosa Purpurea di Franco D'Assisti. Buon agosto a tutti e un saluto da Franco D'Assisti. Questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24, presentissima anche durante tutto il mese di agosto, con puntate nuove di zecca, con i film, le novità in sala e con tante interviste esclusive sulla stagione cinematografica che verrà, soprattutto per quanto riguarda il cinema italiano, ma anche con grandissimi maestri del cinema. Oggi, tanto per dirvene una, è con noi Agnès Varda, una delle fondatrici della Nouvelle Vague francese. E allora, entriamo subito nel vivo della nostra trasmissione con i contenuti nei titoli di testa. Un futuro prossimo, una notte per sfogare tutta la violenza e vivere in pace tutti gli altri giorni dell'anno. È la paradossale situazione di partenza de La Notte del Giudizio. Interessante thriller interpretato da Ethan Hawke. E sullo sfondo, la lezione del grande John Carpenter. Torna il 7 agosto il Festival di Locarno, ormai stabilmente fra le grandi kermesse mondiali della settima arte. In concorso un film italiano, Sangue, di Pippo Del Bono. E in Piazza Grande, davanti allo schermo più grande del mondo, sfileranno le star, da Christopher Lee a Faye Dunaway, da Werner Herzog a Jacqueline Bisset. Intervista al direttore Carlo Chatrian. Ancora un blitz nella stagione autunnale del cinema italiano. Anna Foglietta ci racconta Tutta colpa di Freud, di Paolo Genovese, nel quale reciterà al fianco di Marco Giallini e Claudia Gerini. E si schiera a favore di un cinema italiano capace di raccontare più e meglio il mondo femminile. E ancora un'intervista esclusiva alla Rosa Purpurea. Agnès Varda, la principale esponente al femminile della Nouvelle Vague, a Bologna per presentare il restauro del suo film d'esordio. Con lei abbiamo parlato del cinema francese, dei suoi esordi e dei suoi grandi amori di celluloide, da Jacques Demy a Nanni Moretti. Questa notte la gente sfogherà e la violenza e l'aggressività che di solito reprime. Saremo al sicuro come sempre. Questo è il vostro sistema di trasmissione d'emergenza che annuncia l'inizio dello sfogo annuale. Al suono della sirena, i servizi d'emergenza saranno sospesi. E insomma, un bel mondo quello che nel 2022 vivono i protagonisti del film La Notte del Giudizio, il primo film di cui vogliamo parlarvi, la prima novità in sala di questa settimana, The Purge, il titolo originale, lo sfogo per intenderci. 2022 appunto, Stati Uniti, che sono una nazione rinnovata, governata da questo sorta di clan dei nuovi padri fondatori dell'America, che per mantenere i livelli di criminalità e di crisi, di disoccupazione molto bassi, si sono inventati una cosa, che una volta all'anno, per 12 ore, dal tramonto all'alba, si può fare e si può esercitare su chiunque tutta la violenza che si vuole, compreso l'omicidio. Una notte nella quale sfogare, ecco il titolo, tutte le paure, le violenze represse e scaricarle addosso a qualcun altro legalmente. In quelle 12 ore non funzionano i servizi di emergenza, non funzionano gli ospedali, non funzionano le stazioni di polizia, si può fare quel che si vuole. Ovviamente molti stanno rintanati in casa a fa passare nuttata, come diceva qualcuno, e molti invece partecipano attivamente in mezzo alle strade cercando di esercitare tutta la violenza di cui sono capaci. Il protagonista del film, Ethan Hawke, è James Sandin, un brillante venditore di sistemi di protezione delle case, che come potete immaginare sono molto ambiti durante quel periodo. E si rintana appunto con la sua famiglia nella sua bella villa super blindata, che sembra assolutamente inattaccabile dall'esterno. Lui, sua moglie e due figli, una ragazza adolescente con un fidanzatino molto affettuoso e un ragazzino. Ci sono però un paio di cosine che vanno come non dovevano andare. Una è che il fidanzatino della ragazza, senza dir niente a nessuno, non se n'è andato di casa entro l'ora ed è praticamente inserito in casa, e quindi è un elemento estraneo rispetto a quello che si aspettava la famiglia. Due, che a un certo punto in mezzo alla strada bussa o si fa sentire una preda braccata, un uomo di colore che dice di essere inseguito da un clan che vuole assolutamente ucciderlo, e il ragazzino di famiglia si fa intenerire. Aiuto! Qualcuno mi aiuti, per favore! Qualcuno riesce a sentirmi? Svelto! Da questa parte! Charlie! No! Charlie! Non sappiamo che intenzioni abbia quell'uomo. E allora, si trovano questi due corpi estranei in casa. Cosa succede? Ovviamente non ve lo diciamo. Vi diciamo solo che fuori però qualcuno si accorge che questa preda si è rifugiata, e soprattutto che qualcuno ha dato rifugio a questa preda, evitando di fatto che la purificazione si compia. Ecco che arriva una banda che ha tanto sapore di arancia meccanica da fuori, bussa al videocitofono della blindata villa di famiglia e chiede uno scambio: o ci mandi fuori la persona che noi volevamo uccidere perché questa è la notte della purificazione, o altrimenti sfondiamo tutto ed entriamo in casa noi. Il nostro bersaglio dello sfogo di quest'anno si è nascosto nella vostra casa. Restituitecelo o vi uccideremo tutti. Non possono entrare, vero? Non possono entrare in casa. Tutto tornerà come prima. Niente più sarà come prima. Niente sarà più come prima. Ci potete giurare? Boris Sollazzo è qui con noi. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Ben ritrovato in questa prima Rosa Purpurea d'agosto. Allora, una piccola lezione carpenteriana, potremmo definirla. 85 minuti di horror thriller, di una precisione addirittura forse eccessiva, nel senso che tutto succede come da manuale del thriller, un film da far vedere a scuola di cinema questo. Tutto succede quando deve succedere e come deve succedere, gli elementi sono perfettamente diretti dalla regia di James De Monaco. Dicevo forse anche troppo, perché forse qualche sporcatura, qualche deviazione in più sarebbe stato il valore aggiunto di questo film, che rimane comunque molto solido e, come dicevo, è un film dell'assedio, come aveva insegnato il maestro Carpenter. Esatto, carpenteriana nella trama e nella struttura di regia e sceneggiatura, e cormaniana nella produzione, perché è di quella Blumhouse Production che ha fatto soldi a palate, da Paranormal Activity e Insidious, passando per Sinister, avendo come stella polare un budget quasi mai superiore ai 3 milioni di dollari, come succede qua, e incassi che sono 20, 30, 40, 50 volte maggiori. E anche questo, La Notte del Giudizio non ha avuto diverso destino, se è vero che è arrivato a 64 milioni di dollari in America, ne è costato 3, per adesso è sui 74 nel resto del mondo, e appunto non c'è ancora l'Italia. Sono d'accordissimo con te, a me il film è piaciuto, devo dire che ci sono quei film un po' come il recente Facciamola Finita, che per metà valgono fosse solo per la loro idea, e avere l'idea apocalittica, distopica, forse nemmeno del tutto originale, di un giorno in cui si può delinquere per 12 ore, per 24 ore, per 12 ore, una notte, perché poi appunto la notte del giudizio, si può delinquere senza soluzione di continuità e senza soprattutto punizione, è geniale, soprattutto se lo si fa in America, soprattutto se con questo si proietta in un futuro la ossessione presente per le armi, per la violenza e anche per la criminalità, nel senso positivo e nel senso negativo. Viene raccontata bene, tra l'altro in un film di genere come questo a basso budget ti ritrovi due attori molto bravi, secondo me Ethan Hawke in questi film di genere ha ritrovato una seconda giovinezza, forse anche la prima, visto che nella prima non mi aveva esaltato più di tanto, e poi c'è questa Linnea Eady che, oltre al Trono di Spade, si ritrova molto bene in questi panni sempre un po' scomodi di donna coinvolta in tragedie apocalittiche. De Monaco, come dici tu, ha il solo difetto forse di essere troppo pulito, troppo perfetto, troppo come dire, diritto scolastico nel... forse, un po' scolastico. Esatto, scolastico, e si vede soprattutto questo negli ultimi 20 minuti e nel finale, che noi ci aspettiamo ci debba stupire, e così di fatto non succede. Probabilmente la sporcatura doveva esistere proprio nel personaggio femminile. Però, voglio dire, è uno, sicuramente uno dei film più gradevoli e più gustosi dell'estate, e anche più intelligenti dell'estate. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea abbiamo un altro film, un'altra novità in sala. Tra l'altro l'uscita di questo film di cui stiamo per parlarvi, The Internship, è il titolo originale, Gli Stagisti, il titolo italiano, è stata anticipata proprio al 3 agosto, quindi segno che il distributore, in questo caso la 20th Century Fox, ha forse creduto che questo vuoto classico del mese di agosto potesse essere in qualche modo anche favorevole allo sfruttamento di questo film. Staremo a vedere. Certo, è una commedia con due nomi importanti, Vince Vaughn, Owen Wilson, giusto per citare i pezzi forti del cast, ma anche John Goodman in un ruolo di secondo piano, ma comunque molto visibile. Che storia è? Quella di due quarantenni, o quasi quarantenni, che dopo aver perso il lavoro di venditori classici, vecchia maniera, a causa della crisi economica, decidono e provano a ricominciare da capo. È un tema, tra l'altro, assolutamente all'ordine del giorno, non solo in America ma anche in Italia. Trovano il modo di provare ad andare a fare uno stage a Google, nel quale risulteranno, come dire, piuttosto antiquati. Sentiamo. Ti sfido a cantare come loro e non andare fuori di testa. Il Chronoshock 13. Non ve l'hanno detto, vero? La vostra azienda ha chiuso. Hai chiuso l'azienda? È tutto computerizzato adesso. La gente nutre profonda sfiducia verso le macchine. L'hai visto Terminator? Già. Il 2? Mm-hmm. Il 3? Sì. Il 4? Tutti. Siete stati dei venditori incredibili, ma ammettetelo, siete dei dinosauri. Nick, ci sono. Google. Hai trovato un lavoro a Google? Beh, non un lavoro, è un colloquio per uno stage che poi potrebbe portare a un lavoro. Questa potrebbe essere la nostra ultima occasione. Dai, avvicinati, non ci vedranno. Vedi qua, tu è piccola la webcam. No, dai, guaccia. Vi vediamo, ragazzi. Ok, bene, fantastico. Ci vedete? Salve, io okay. Mi chiamo Billy. E vi sentiamo anche bene. Oh, grande. Benvenuti a Google. Il 5% di voi troverà un lavoro a tempo pieno. Il restante 95% si attacca. È come in Hunger Games, siamo nell'arena contro una marea di piccoli geni per una manciata di posti. Io sono Lyle, uno dei team manager, sbattimelo. No, noi siamo vecchio stile, noi quelle cose perverse col pugno non le facciamo. Fratello, mica mi fa male, sono abituato. Qui c'è qualcosa che non va. E insomma, c'è qualcosa che non va. Boris, gli ingredienti sono molto chiari, commedia proprio del tutto lineare e neanche molto nuova. Però, insomma, questo tema qua dei quarantenni che si trovano a dover fronteggiare una serie di ventenni scatenati e che usano quei mezzi meglio di tutti, è un tema presente sul tavolo. Sì, assolutamente sì. Il problema forse grosso degli stagisti è che il meglio che trovate nel film lo sentite nel trailer, nel senso che le battute migliori, anche le suggestioni migliori vengono da lì. L'idea è anche buona ed è aiutata probabilmente da una voglia di restyling di Google, che mette a disposizione il suo marchio e autoironicamente si mette in gioco in un film che comunque ne sottolinea anche tutte le particolarità più rigide, perché come tutte le rivoluzioni, come tutte le innovazioni, anche quella digitale ha la sua rigidità. Qui due old economy, due venditori old economy decidono di provare la loro avventura nella new economy. Ovviamente, senza fare spoiler, ci sarà prima uno scontro tra questi due mondi, rappresentato dal modo ridicolo in cui vengono percepiti questi due matusa, tra virgolette, appena quarantenni, ma ovviamente lì sono tutti ventenni, hanno dei cappellini molto buffi, sono tutti molto smart, appunto c'è questa forte scontro che poi diventa però anche incontro, metamorfosi comune e in qualche modo sintesi. Nulla di nuovo, come hai detto, ed è forse questo il problema del film. Dall'altra parte però ci sono Owen Wilson e Vince Vaughn, che avevamo visto in Wedding Crashers, ci avevano fatto molto ridere, anche qui dimostrano di essere una coppia fatta per stare insieme, anzi sono stati separati troppo a lungo. C'è uno Sean Levy che è uno di quei bei registi medi che sanno raccontare bene le storie in maniera rotonda, senza sbalature, e portando a casa quello che mantengono. Insomma, è un film leggero che un po' vi farà piangere, ma non perché sia commovente, ma perché il problema della disoccupazione a 40 anni, come a 30, come a 50, è molto vicino, e molti purtroppo di noi hanno vissuto quello che vivono Vaughn e Wilson, ridendo molto di meno. Diciamo che è promosso senza grandissimo entusiasmo, ma sicuramente è promosso. E allora un'altra, una commedia fresca, diciamo, questa veramente per quest'estate. Tra l'altro Sean Levy, hai detto giustamente, insomma, ricordiamolo, è anche il regista di Real Steel, che è un film che io personalmente ho amato molto, e che quindi insomma viene da già un esperimento di questo tipo, e si è trovato a suo agio con questo tipo di commedia. Pensate a Notte folle a Manhattan, per dire, con Steve Carell e Tina Fey. Allora, grazie Boris, noi ti rimettiamo in ballo la settimana prossima, ovviamente, perché non mancheranno titoli anche per le calde notti di Ferragosto, e a risentirci quindi con Boris Sollazzo. Alla prossima settimana. E siamo quindi adesso alla prima pagina con il nostro DVD Game, che non vi molla nemmeno durante questo mese di agosto. Come sempre, tre tracce di un film misterioso, almeno fino a quando qualcuno di voi non lo indovinerà. Portatemi a casa. Tacete, vi prego, cara. Ho scambiato solo qualche parola. Anch'io ho qualche parola da dire a persone che non si dovrebbero frequentare. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Scriveteci con il titolo di questo film e con il vostro indirizzo privato per provare a vincere una copia in Blu-ray del film medesimo per il sabato e per la domenica. Più tardi avremo altre due possibilità. E allora, parliamo di festival. Agosto, l'estate, il periodo dei grandi festival internazionali, aperto a fine maggio da Cannes, chiuso poi all'inizio di settembre da Venezia, e in mezzo c'è il Festival di Locarno, sempre più grande, sempre più competitivo rispetto anche agli altri grandi festival. Prima edizione targata Carlo Chatrian come direttore artistico, che succede a Olivier Per, ma come sempre la grande sintesi fra tutta la cinefilia esprimibile, ma anche i grandi nomi che anche quest'anno, da Jacqueline Bisset a Faye Dunaway ad esempio, saranno in Piazza Grande, sul palco del più grande cinema all'aperto del mondo. Insomma, tanto materiale, una bellissima retrospettiva dedicata al grande cinema americano, come sempre con George Cukor. Ne parliamo con Carlo Chatrian. Qual è la cifra di questo festival? Qual è il tocco che il nuovo direttore artistico ha voluto dare? Sentiamo. Ma io spero che il festival appartenga ai film che abbiamo selezionato più che a me. Tra l'altro io mi considero, come dire, forse il direttore è colui che coordina, dirige un gruppo di persone, quindi lo considero veramente come un lavoro collettivo. E anche come sento parte di una storia che questo festival ha, che per me è una storia di coraggio, di libertà e di ricerca. E queste sono le linee che mi hanno un po' mosso nel cercare di portare il mio contributo, dando da un lato ragione della storia del cinema, nell'ottica anche di portare una memoria che oggi si rischia di perdere, e dall'altra parte però guardando al futuro sempre, quindi guardando a quei registi che continuano a ricercare attraverso il cinema di raccontarci il mondo, e a quei registi non ancora conosciuti che iniziano a farlo in maniera coraggiosa, che sia tanto nel cinema con grosse produzioni che si vedrà in piazza, quanto quello invece in produzioni più indipendenti che potrà essere scoperto nella sezione più di ricerca che si chiama Cineasti del Presente. Ecco, parlavi di cineasti che cercano di raccontare il mondo, mettendo magari sempre l'ostacolo un attimo più in là a livello di linguaggio, di immagine. Questa è un po' la cifra di Locarno. Mi viene in mente, a partire da Pippo Del Bono, unico film in concorso italiano. E Pippo Del Bono, quest'anno per lui è stata un'esplosione clamorosa, perché non è più esattamente un ragazzino, al cinema aveva già partecipato in passato, ma quest'anno, fra Amore Carne, che ha avuto recensioni straordinarie in Francia, le sue presenze come attore in molti film anche importanti italiani, insomma, è diventato un elemento che può, come dire, trainare un certo tipo di cinema italiano. Ma io spero di sì. Pippo Del Bono, che tra l'altro a Locarno ha fatto vedere tutta la sua opera qualche anno fa, è appunto uno sperimentatore, tanto nel teatro quanto al cinema. Il suo ultimo film è molto coraggioso, e tutta la sua opera è molto coraggiosa proprio perché si mette in scena, si mette in campo innanzitutto con la sua persona e con una macchina da presa che è per me un prolungamento della sua sensibilità, della sua emozione. Il film poi Sangue ha a che fare con una figura a lui carissima, che è la figura di sua madre, a cui contrappone, come appunto una sorta di dialogo o conversazione, un compagno di viaggio incontrato recentemente, che è Giovanni Senzani, anche lui con una storia di sofferenze, di dolori, ma sofferenze anche provocate, e lo fa in modo anche, l'incontro è limpido, non è assolutamente reticente tra i due. Esiste anche un altro film in concorso che, sebbene non di produzione italiana, vede due registi italiani che ritornano a Locarno e di cui mi fa piacere parlare, che è l'ultimo lavoro di Ervant Janikian e Angela Ricci-Lucchi. È una produzione francese, il film si chiama Pays Barbare, però è un film che parla dell'Italia perché lavora proprio sui materiali del fascismo, a iniziare da un materiale straordinario su Piazzale Loreto, 1945, e l'esposizione del Corpo del Duce. Ecco, dicevi anima concorso, anima indipendente, però Piazza Grande poi rimane un pochino il grande faro acceso su questo straordinario festival, anche per partecipazione di pubblico spropositata, no, da tutta Europa. Quali sono i due, tre film che ti senti di segnalare fra quelli che vale la pena venire a vedere facendo anche qualche chilometro dall'Italia in Piazza Grande? Io inizierei dall'inizio, ovvero partiamo con un film che per me rappresenta quello che Piazza Grande può dare in più a un film. Il film si chiama Two Guns, è quello che viene considerato un blockbuster con due grandissimi attori, Denzel Washington e Mark Wahlberg, però è anche un buon lavoro di scrittura, tra l'altro da parte di un regista che proprio a Locarno aveva mosso i primi passi, perché suo un regista islandese che si chiama Kormakur, il primo film era stato mostrato in concorso a Locarno 13 anni fa. È un action movie, però è anche una lettura interessante sul rapporto tra individuo e potere, come molto spesso capita nel cinema americano. E poi da italiano mi fa piacere citare il film italiano in piazza, non perché sia italiano, ma perché per me è davvero un buon film, La variabile umana di Bruno Oliviero. Anche qui è un regista legato a Locarno che arriva con un primo film di finzione in cui mostra una grande abilità nel saper dirigere un grande attore come Silvio Orlando, ma non solo lui, e nel raccontare una città, Milano, e le ferite che la abitano, perché il film è una detective story, ma al tempo stesso è un racconto tra padre e figlia e tra una difficoltà di comunicazione tra le generazioni, attraverso una storia che è una storia di indagine. Senti, Locarno sempre di più negli ultimi anni è diventato anche star, però abbiamo visto insomma tanta roba negli ultimi anni, Alien Cowboys, cioè personaggi del grande jet set americano. Quest'anno, oltre ai nomi che hai citato all'inizio, chi dobbiamo aspettarci? Sì, Locarno penso che vuole essere la casa del cinema. Il cinema è una macchina di sogni e i sogni hanno bisogno di corpi per prolungarsi, e quindi penso sia importante, anche a livello personale, un piacere far venire personalità che hanno fatto sognare l'immaginario collettivo. Ci sarà Faye Dunaway, che è una delle attrici forse più associate alla grazia e alla seduzione, un'altra attrice che a me è molto cara, che si chiama Jacqueline Bisset, tra l'altro protagonista dell'ultimo film di Cukor a cui Locarno dedica la sua retrospettiva, e poi apriremo con Christopher Lee, che per me è un monsieur cinéma, qualcuno che ha accompagnato il cinema in quasi tutta la sua storia, l'italiano Sergio Castellitto, e poi chiuderemo con un film con Michael Caine che aspettiamo a Locarno, e Werner Herzog, che magari non è una star ma che è regista, attore e persona in campo. Carlo Chatrian, direttore artistico del Festival di Locarno, dal 7 al 17 agosto, Ferragosto compreso, per una bella gita in riva al lago, gita cinematografica ovviamente. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, noi proseguiamo con questa puntata con un ospite davvero straordinaria. A volte con questo programma e generalmente facendo questo lavoro si riesce ancora a toccare un pezzo di storia del cinema. È quello che è capitato alla nostra Chiara Pizzimenti, incontrando e intervistando a Bologna Agnès Varda. Agnès Varda, regista straordinaria, Leone d'Oro lo ricorderete per Senza tetto né legge a Venezia, autrice di tanti film che sono rimasti, anticipatrice della Nouvelle Vague, moglie del grande Jacques Demy, insomma un personaggio personaggio che ha scritto davvero di pugno un pezzo importante della storia del cinema francese e della storia del cinema in generale. E allora quel bellissimo festival che si è concluso all'inizio di luglio, che è il Cinema Ritrovato, ha dato possibilità di vedere un film restaurato di Agnès Varda, niente meno che il film del suo esordio, che si intitolava La Pente Courte e che aveva tra l'altro, registrava tra l'altro anche l'esordio di Philippe Noiret. Pensate, un esordio duplice: Agnès Varda dietro la macchina da presa, Philippe Noiret davanti. È un film che ha avuto un'importanza determinante, non solo perché è stato l'esordio di una grande regista, ma perché appunto ha anticipato temi che sarebbero stati poi temi e modi che sarebbero stati poi della Nouvelle Vague. Lo diceva anche André Bazin, che ha fatto tanto per far esordire la Varda, ha chiesto proprio che ci fosse un mecenate che potesse in qualche modo trovare i fondi per questo film così sperimentale, così avanti, a vederlo adesso addirittura da brividi. E allora, Chiara Pizzimenti intervista Agnès Varda in esclusiva per La Rosa Purpurea, partendo proprio dal restauro della Pente Courte. Alors on commence. Tu es bien pressé. Oui. Alors tu ne m'aimes plus. Non. Alors tu veux me quitter. Non. Alors de quoi s'agit-il? Se tu vuoi continuare a vivere tranquillo, puoi ripartire. I film che hanno fatto la storia del cinema e gli autori che l'hanno fatta, Agnès Varda è una di questi, presenta una versione restaurata di La Pente Courte, una versione da lei stessa restaurata. Com'è stato questo lavoro? Je pense que on doit aller. Penso che si debbano seguire i cambiamenti nella tecnica. Le sale cinematografiche, le cabine di proiezione vogliono questo nuovo tipo di supporto. Si capisce facilmente che è più semplice far circolare un intero film in digitale per 20 grammi di peso che una bobina da 25 kg. È il senso del progresso ed è un bene. La questione è che i film d'autore oggi sono realizzati già così. Invece i film più vecchi, i film del patrimonio storico del cinema, quelli che ancora si vogliono vedere, se non si fa qualcosa non si potranno più mostrare in sala. E noi non vogliamo che i nostri film spariscano. La Film Foundation ha voluto restaurare parte dei miei film e anche il laboratorio L'Immagine Ritrovata della Cineteca di Bologna vuole conservare e restaurare il mio primo film del 1954, La Pente Courte. Io sono molto grata di questo interesse, ma il restauro è al contempo un lavoro molto faticoso. Si vede fotogramma per fotogramma, si aggiusta la luce, più bianco, meno bianco, eccetera. Io non vivo nel passato, faccio il restauro perché si deve fare, ma senza provarne piacere. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je veux dire que je le fais sans plaisir. Com'è stato invece lavorare sul set? Allora, com'è stato fare il film? Je l'ai fait avec plaisir, avec l'enthousiaste. Ho diretto il film con molto piacere. L'ho fatto con l'entusiasmo del dilettante, di chi si butta verso l'ignoto. Non avevo esperienza, non avevo studiato per questo. Avevo scritto un film come io penso che debba essere un film. Non conoscevo nemmeno bene il cinema, non avevo fatto l'assistente di un regista. Il primo giorno mi sono detta, è questo il mio mestiere, è questa la mia vita, è questa la mia vocazione. È un film che ancora riconosco come molto coraggioso, che non si avvicina ai gusti del pubblico. È radicale. Volevo che fosse un cinema brusco, con il coraggio di mostrare due mondi nello stesso tempo, quello privato e quello della comunità. Nella vita è evidente questo problema. Si sa che mentre c'è una storia privata con amici, innamorati, figli. Allo stesso tempo, per esempio, ci sono persone in Egitto che fanno la rivoluzione, che muoiono in Siria o lottano per difendere i propri diritti. Questi piani non si possono mescolare. Non si può andare a una riunione sindacale e parlare d'amore. Io ho voluto mettere vicine le due cose. Non fare in modo che si conciliassero, ma solo mettere uno accanto all'altro i problemi di un paese in cui i pescatori cercano di salvaguardare il proprio lavoro e dall'altra parte una coppia si pone delle domande sull'amore. Tutte cose che le coppie conoscono, trattate in modo molto letterario. E i pescatori, invece, trattati in modo un po' neorealista, anche se io non conoscevo bene il cinema italiano. Avevamo talmente pochi soldi che non potevamo avere il suono in presa diretta e abbiamo fatto dei doppiaggi. Non sono la sola al mondo, ma io ho inventato il mio linguaggio cinematografico. Avevo 26 anni, è passato tanto tempo. Ma j'avais 26 ans. Allora, il y a du temps qui est passé. La definizione che più spesso viene utilizzata per parlare del suo cinema e anche di lei è anticipatrice della Nouvelle Vague. Come si trova con questa definizione? Il film je l'ai fait en 1954. Ho fatto effettivamente il mio primo film nel 1954 e bisogna aspettare il 1959 per avere i 400 colpi e fino all'ultimo respiro. Da un punto di vista cronologico, sì, sono venuta prima. Cronologico, je suis venue avant, voilà. È soltanto questo? C'est parce que il y a eu quelque chose en commun. Non è però solo questo. C'è stato qualcosa in comune con tutta la Nouvelle Vague. La volontà di girare non in studio, ma in un ambiente naturale. Di far recitare talvolta attori non professionisti. Evitare la staticità. Alcune cose tipiche della Nouvelle Vague ci sono già in La Pointe Courte. Un po' tipiche della Nouvelle Vague qu'on trouve déjà dans La Pointe Courte. Oltre al cinema di finzione, lei ha lavorato spesso facendo documentari. Qual è la differenza fra i due tipi di lavoro? Qual è la sua preferenza? C'est deux travaux différents. Sono due lavori differenti con approcci diversi. Talvolta il documentario è qualcosa che si conosce fatto con persone che si conoscono e quindi si vuole condividere qualcosa che si conosce. L'ho fatto di recente e in passato, 10 anni fa in Les Glaneurs et la Glaneuse, sui robi vecchi e i raccoglitori nei campi. Si è al servizio del soggetto in questo caso. Quando si fa fiction entra in gioco l'immaginario, si creano dei personaggi. È molto diverso, anche se qualche volta nel cinema di finzione c'è la rappresentazione realista. Io ho fatto un film, Senza tetto né legge, premiato a Venezia, che era una finzione completa, anche le testimonianze, ma aveva una forma di documentario in qualche modo. Si poteva credere che fosse vero. È una cosa che mi piace molto, non creare una barriera tra fiction e documentario. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup de pas installer une barrière entre fiction et documentaire. Il était une fois un garçon qui habitait dans un garage à Nantes. Voici les trois mousquetaires. Sa mère aimait chanter. La maman du petit homme lui dit un matin. Son père aimait chanter. Caroline, Caroline, mets tes petits souliers vernis. Et lui aussi. Ça vaut mieux que de sucer de la naphtaline. Ci può raccontare il suo rapporto con Jacques Demy, il vostro incontro? J'ai rencontré Jacques Demy. Ho incontrato Jacques Demy e mi sono innamorata di lui prima che lui facesse Lola. Dunque, non mi sono innamorata di un cineasta celebre e molto dotato. Non aveva ancora cominciato. Trovo però che avesse un vero talento e non mi sono sbagliata ad avere fiducia in lui. Abbiamo vissuto insieme molto tempo, abbiamo litigato, avuto crisi, ma siamo stati una coppia a lungo. Non abbiamo mai lavorato insieme, ognuno il suo, ma nella stessa casa. Chacun pour soi, mais dans la même maison. Come lavora con gli attori? Non sono mai stata una grande direttrice di attori. Ci sono registi che costruiscono con gli interpreti una complicità, i personaggi, fanno delle prove. Io non sono molto capace di farlo. Ho più l'impressione che gli attori debbano rientrare nel mio progetto a loro modo, ma non sono io a costruire bene la relazione con gli attori. Cosa le piace vedere al cinema, se va al cinema attualmente? Le film d'auteur. I film d'autore, e io definisco i film d'autore quelli scritti e realizzati dalla stessa persona. Non scritti del tutto, ma anche con una collaborazione alla sceneggiatura e certamente la direzione. Mi piace molto, anche se si arriva al montaggio fatto dalla stessa persona, all'opera completa. So che ci sono grandi film fatti da equipe, squadre diverse per la scrittura, le riprese e il montaggio. Ci sono registi americani che non seguono nemmeno il montaggio. Io invece amo fare il montaggio da sola, gestire il film dall'inizio alla fine. Come gli autori che amo, Cassavetes, Demy, Resnais, Moretti, tutte persone responsabili del film fino alla fine. Responsabili del film jusqu'au bout. Ça que j'aime. Il cinema è fatto di tante cose, di musica, di tecnica, anche di glamour in qualche modo. Qual è la parte del cinema che lei preferisce? Il y a beaucoup de domaine, on va dire. Ci sono molte cose dentro al cinema, ci sono molti uomini, molti lati, potrei dire. Quello che proprio non mi interessa è il lato mondano, quelli che vanno ai festival solo per le foto glamour agli attori, per i cocktail. Io non comprendo il lato glamour del cinema e non lo frequento. C'è un altro lato che è l'industria. Io la trovo formidabile, con ottimi tecnici, leggi, sindacati e un'organizzazione del lavoro che però talvolta mette un freno alla libertà. Il cinema indipendente è invece un cinema povero. Bisogna trovare un compromesso, un comune denominatore. Anche con pochi mezzi poter arrivare a una buona distribuzione. Non si fa un film per 10 persone in una cineteca. Si cerca di fare film per molte persone. Talvolta non ci si riesce, ma l'obiettivo è sempre raggiungere più gente possibile. Colti e non, classi popolari e borghesi, studenti e operai. Agnès Varda alla Rosa Purpurea, intervistata da Chiara Pizzimenti. A questo punto noi vi facciamo giocare con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi. Se avete considerazione per me, ridatemi la pace. Non ho pace da dare. Non può esserci pace per noi, solo miserie o la felicità più grande. La Rosa Purpurea @radio24.it. Di che film si tratta? Atmosfere romantiche per questo film. La Rosa Purpurea @radio24.it. La vostra risposta qui a questo indirizzo, con il vostro indirizzo per provare a vincere il Blu-ray di questo film. Fra poco avremo l'ultima possibilità. A questo punto noi ci lanciamo nell'ambito delle segnalazioni della prossima stagione cinematografica, come stiamo facendo già da qualche giorno, da qualche settimana, e come faremo per tutto questo mese di agosto, ovvero quello di raccontarvi in anticipo, soprattutto di farvi incontrare i protagonisti dei film italiani che vedremo da settembre fino, diciamo, dopo Natale. Oggi vogliamo parlarvi di un film che è fra i più interessanti, intanto perché il regista è Paolo Genovese, che è il regista di Una famiglia perfetta, uno dei film più belli visti quest'anno per quanto riguarda il cinema italiano, che ha avuto 3 nomination ai David di Donatello. Insomma, è un film che ha sicuramente segnato un punto molto alto fra regia e racconto, fra commedia e cinefilia. Veramente un film molto riuscito. E allora, il ritorno di Paolo Genovese con un film che si intitola Tutta colpa di Freud, almeno provvisoriamente questo sembra essere il titolo. La storia di uno psicanalista, Marco Giallini, e di 3 figlie, Anna Foglietta, Vittoria Puccini e Claudia Gerini. Quindi, insomma, molto ben delineato il cast, le vicende sentimentali di questi 3 personaggi: la prima una libraia che si innamora di un ladro sordomuto, pensate un po', la seconda, una ventenne che vive una relazione con un uomo di 50 anni sposato, insomma c'è di che far impazzire questo padre, la terza, proprio Anna Foglietta, una ragazza lesbica che decide di provare a costruire un rapporto con un uomo, e quindi insomma una sorta di coming back, potremmo chiamarlo. Proprio di questo abbiamo parlato con Anna Foglietta, attrice molto molto interessante, arrivata a una grande maturità, partendo proprio da questo titolo, Tutta colpa di Freud. L'unica cosa che mi preoccupa un po' è che quest'annata è un'annata un po', dal punto di vista cinematografico, molto attenta alla psicanalisi. So che non è l'unico film che tratterà di psicanalisi, però il nostro, diciamo, che lo fa una chiave molto particolare, perché è un punto di vista di un padre che affronta l'emisfero femminile osservando le figlie, i disastri sentimentali che combinano queste 3 scapestrate. Ed è interessante perché, insomma, un film così tanto femminile ci mancava, almeno a me mancava, francamente, visto che comunque il cinema è sempre troppo in mano agli uomini e parla sempre di storie sempre troppo maschili. È sempre un bene quando, insomma, si affrontano delle sceneggiature da un punto di vista più femminile. Ma è il tuo il personaggio che spariglierà i dialoghi e i dibattiti sulla stampa italiana per settimane, lo sappiamo già, perché tu vedrai cosa succederà. Ovviamente. Io ho già interpretato il ruolo di un omosessuale, di una lesbica in un film. Ma non è tanto quello. Non è tanto quello, è il fatto è che questa donna deciderà a tavolino di abbandonare la sua omosessualità a favore della eterosessualità. Da lì ovviamente nasceranno una serie di situazioni comiche molto molto divertenti e rocambolesche, perché insomma vi lascio immaginare, anche perché lei poi comunque ha una sorta di tic nervoso, cioè in realtà quando si eccita vedendo una donna gli succede una cosa precisa, per cui poi non riuscirà a tradire fino in fondo questo suo essere omosessuale, questo suo essere, punto, semplicemente, insomma. Però è verosimile, abbiamo parlato, ci siamo confrontate con tante donne che hanno appunto avuto più o meno questa sorta di crisi mistica, possiamo definirla in questo modo, ed è possibile, plausibile, perché poi rispetto all'omosessualità maschile ci sono delle differenze, l'abbiamo effettivamente constatato, e sono contenta perché si parla poi soprattutto di omosessualità femminile. abbiamo sempre, appunto, anche in questo caso, sempre l'essere maschi, l'essere uomini, no? Al centro di tutto, anche dell'omosessualità, invece in questo caso siamo donne. È un ruolo talmente forte che forse meriterebbe, non tanto in questo film, ma meriterebbe un ruolo da protagonista, cioè lo vedo un ruolo attorno al quale fare un film proprio. Ma in realtà Paolo, quando mi ha chiamato per sapere se insomma, avrei accettato questo ruolo, lui mi ha detto che è tratto da una pièce teatrale, quindi tutto il film, diciamo, è partito dal personaggio di Sara, che in realtà effettivamente, come dici tu, meriterebbe un film a sé. Però inserito in un contesto di altre storie con altre sorelle, ti assicuro che c'ha la sua parte ben definita. Poi chissà, magari è il prequel per una cosa più grande. Magari partiamo come tre sorelle, poi ognuna avrà un film a sé. Chi lo sa, va. Però è un ruolo estremamente centrale ed estremamente anche difficile, perché insomma dare credibilità e soprattutto dignità a una donna che decide di cambiare orientamento sessuale senza renderlo sempre, come dire, sì, buttarla in canzonella, non è così, perché la commedia non è mai macchiettistica. La commedia parte da un qualcosa di estremamente reale, in quanto estremamente reale ha degli spunti comici. Cosa ti manca in questa fase della tua carriera al cinema? Dunque, al cinema ho una madre, perché l'ho fatta per la televisione, però non è la stessa cosa. L'ho fatto con un regista, tra l'altro, anche molto cinematografico, che è Marco Pontecorvo. Però una madre, e soprattutto una madre molto, come dire, contestualizzata in questa Italia così drammatica. Mi piace molto il cinema con un impegno civile. In Italia si fa troppo poco, secondo me, considerando proprio il momento storico, per cui mi piacerebbe che mi invitassero a fare qualcosa di un pochino più impegnato, perché ormai che so fare la commedia si è capito, l'ho capito anche io e sono felice, però mi piacciono anche nuove sfide e spero che anche i produttori e i registi possano pensare la stessa cosa, quindi magari chiamarmi per fare delle cose un pochino più impegnate. Io dico, no, questo lo dico, lo denuncio. Com'è possibile che non riusciamo a fare un film sulla crisi economica che c'è adesso in Italia da un punto di vista soprattutto femminile? Le madri si fanno un mazzo, lo posso dire, un mazzo reale. È come se non ci fosse la voglia di far vedere questa cosa, eppure ci appartiene e bisogna, come dire, esorcizzarlo anche attraverso il cinema, questo momento che merita assolutamente attenzione. Un po' mi indigna questa cosa. Ho fatto da poco la giuria in un festival di cinema, che è il Festival di Pesaro, e abbiamo avuto una compagine, insomma, di autori molto variegata, soprattutto attenti al cinema cileno, messicano, cinema dell'est, un film rumeno ha vinto, abbiamo premiato, perché era l'unico effettivamente che è riuscito a dare, come dire, con una leggerezza respiro però a una problematica molto molto attuale, di grande attualità, questi figli abbandonati dalle madri che vengono a lavorare in Italia. Noi non siamo in grado di fare la stessa roba, non siamo in grado di dare un occhio attento a quello che è la nostra società civile attuale, e questo un po' mi indigna e mi indispone. Anna Foglietta, combattiva, grintosa, la rosa purpurea, protagonista fra i protagonisti di Tutta colpa di Freud. La rosa purpurea. E siamo giunti in fondo alla nostra rosa purpurea, come sempre con la parte dedicata ai film da vedere in casa. Anche in questo mese di agosto ci facciamo aiutare dagli amici della redazione di Film TV. È con noi Giulio San Giorgio. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Allora, l'estate e segnatamente agosto non significano in televisione carenza di materiale cinematografico di prima qualità, anzi, quasi il contrario rispetto a quello che succede invece nelle sale cinematografiche. Diciamo che anche noi viviamo la nostra stagione estiva un po' come in America, però la viviamo in televisione. E allora vogliamo già da questa puntata cominciare a fare un po' durante questo mese di agosto anche un po' un salto nel passato. Lo facciamo cominciando con un film del 1943 con un cast altisonante che adesso il nostro Giulio San Giorgio ci ricorderà e che si intitola Terrore sul Mar Nero. Esattamente, Terrore sul Mar Nero, domenica su TV 2000 alle 22:10, è uno dei film mancati di Orson Welles con Joseph Cotten. Welles, regista di cui si potrebbe stilare veramente una filmografia sterminata di incompiuti, progetti falliti, lasciati mai raggiunti. È la storia di un agente segreto americano che va in Turchia per trasmettere informazioni di vitale importanza agli alleati, ma qui è preso di mira dalle spie tedesche che cercano in tutti i modi di farlo fuori. Dopo il successo di Quarto Potere e mentre si stava già occupando di L'orgoglio degli Amberson, Welles cominciò a lavorare su questo film, che fu poi diretto da Norman Foster, ma che è un film che risente ancora tantissimo di come Welles l'aveva disegnato. Diventa una spy storia ad altissima tensione, con una messa in scena barocca, espressionista, molto più che in ogni prodotto di genere del periodo. E allora, Terrore sul Mar Nero, vale la pena dire una piccola curiosità, che nel 75 ci fu un remake che si intitolava La via della paura ed era diretto da Daniel Mann. Insomma, evidentemente un plot plot che è rimasto un po' così latente nella storia del cinema. Comunque, domenica 4 agosto, Terrore sul Mar Nero, TV 2000 alle 22:10. Invece, due giorni dopo, il 6 agosto, un, possiamo chiamarlo musical sui generis, come Cry Baby. Sì, assolutamente, Cry Baby martedì, Rai Movie alle 16:15, quindi nel pomeriggio. Siamo negli anni 50, Allison è una fanciulla bene di Baltimora ed è combattuta tra i precetti borghesi e l'attrazione per i giovani motociclisti vestiti di pelle. Finisce che si innamora di Wade, detto Cry Baby, e interpretato da un Johnny Depp al primo ruolo importante, che è un fascinoso teppista figlio di terroristi condannati a morte, il quale ha giurato di vendicarli consacrando la propria vita a fare il male. Seppur edulcorato rispetto ai radicali capolavori trash del passato, che erano film tra foga punk, travestitismo, coprofagia e alti sfregi e costumi buoni della società americana, il cinema di John Waters, autore cardine dell'avanguardia di quel periodo, rimane immerso nel vetriolo e Cry Baby rimane uno sfrenato musical parodico, graffiante, dissacrante, satirico e pregno del particolare gusto dell'assurdo che ha fatto del regista un maestro. E tra l'altro anche questo, ambientato nella sua Baltimore, così come sarebbe stato poi con Grasso e Bello, da cui sarebbe venuto fuori Airspray, insomma, come dire, esatto, anche qui di cortocircuito, assolutamente cortocircuito, ma anche cinema seminale quello di John Waters, da una parte citazionista, dall'altra seminale, insomma, che è abbastanza interessante. Allora, Cry Baby, guardatelo per un bel pomeriggio del 6 agosto, martedì alle 16:15 su Rai Movie. Grazie Giulio, noi ci sentiamo la prossima settimana per dare un'occhiata ai palinsesti della settimana caldissima, quella di Ferragosto. Ciao Franco, alla prossima settimana. E allora, siamo arrivati adesso a parlare invece di cinema da vedere in casa, come sempre cominciando però con la terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Andremo a Mosca, poi nella mia tenuta in campagna. Sembra un'ottima idea. Ma per un giorno o due Anna sarà a casa. E allora, la Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta? Provate a vincere un Blu-ray di questo film per il sabato e uno per la domenica rispondendo esattamente con il vostro indirizzo di posta ordinaria. E settimana prossima ovviamente sveleremo l'arcano, sveleremo e recensiremo questo film. Vi dico già che non vi daremo i vincitori perché con le ferie di mezzo, con agosto di mezzo, la nostra segreteria è un po' più affaccendata. I vincitori da qui a tutto agosto verranno avvisati alla fine di agosto per posta elettronica. E invece andiamo a svelare qual era il quiz di 7 giorni fa. Come hai detto bene tu, è la catastrofe. Però ci vengono richieste azioni concrete. Tu che cosa faresti? Cercherei di non calpestare la dignità di chi non può difendersi. Se l'Europa e il mondo sono diventati una miserabile bottega, allora noi chi siamo? Lei chi è, presidente? Si trattava di Viva la Libertà, uno dei film più belli fra quelli usciti in Italia la scorsa stagione, la stagione 2012-2013, che si va chiudendo con uno straordinario Tony Servillo, la storia di del responsabile del principale partito di opposizione di centrosinistra, insomma non lo chiamano Partito Democratico nel film, ma tutto sembra far presagire a quel personaggio. Qualcuno all'epoca dell'uscita ci vedeva proprio Bersani in quella veste, in crisi politica, in crisi di sondaggi, di consensi, anche un po' stanco, che prende, molla tutto, se ne va in incognito in Francia, e il suo posto viene preso dal suo fratello gemello, un po' pazzo, filosofo, che è stato anche internato e che però darà un'incredibile botta di vita al partito, facendolo praticamente rinascere. Una straordinaria prestazione attoriale di Tony Servillo, ma anche una straordinaria riflessione sulla fantasia e la politica al servizio di un paese. Claudio Poffi è in collegamento con noi per raccontarci un po' questa edizione on video, che è stato il nostro quiz della scorsa settimana. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, di 01 Rai Cinema, la pubblicazione on video di Viva la Libertà con DVD, ma soprattutto Blu-ray, in particolare quest'ultimo è di notevole resa tecnica, immagini eccellenti, una traccia DTS multicanale ad alta risoluzione in italiano di pari resa. Come extra segnalo un dietro le quinte e scene tagliate. E allora questo è Viva la Libertà, il nostro game della scorsa settimana. Ovviamente per chi non l'ha vinto il consiglio di recuperarlo, perché è un film davvero notevolissimo. Andiamo avanti invece con le recensioni, con le novità che arrivano in videoteca, e parliamo di un grande classico, un film assolutamente senza tempo, Richard Gere, Debra Winger, protagonisti di un film diretto da Taylor Hackford, Ufficiale e Gentiluomo. Prima di poter vendere quello che vi insegniamo a qualche linea civile, dovete regalare alla Marina 6 anni della vostra vita, tesorucci. E in 6 anni possono succedere un sacco di cose. Potrebbe scoppiare anche un'altra guerra. E se qualcuno di voi ha un'anima troppo pacifica per buttare napalm su un villaggio nemico dove potrebbero esserci donne e bambini, io me ne accorgerei. Sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Sono stato chiaro? Sì, sì, signore! Dopo il suicidio della madre, il giovane Zack cresce in giro per il mondo accanto al padre marinaio e ubriacone, sino al giorno in cui decide di affrontare il corso per ufficiali della Marina per diventare pilota di jet. Foley, violento e rigido istruttore di colore, ne metterà a nudo forza ma anche debolezza in un confronto sempre più serrato che rischierà di compromettere per sempre la carriera militare di Zack. Drammatica opera di culto del 1982 di Taylor Hackford, vinse 2 Oscar, tra cui quello per l'attore non protagonista Louis Gossett Jr. Da Universal l'edizione Blu-ray di qualità piuttosto buona, qualche riserva nel risultato per le immagini meno luminose, rimanendo sempre nettamente sopra la vecchia edizione DVD. Anche in questo caso, rispetto all'edizione americana, purtroppo non sono presenti il commento al film, un piccolo documentario e una galleria fotografica. E questo era appunto Ufficiale Gentiluomo, ma c'è in videoteca anche un film di tutt'altro segno stilistico, ma anche molto molto coinvolgente, come Driven, film del 2001, ormai anche lui alle sue 12 primavere, diretto dallo specialista dell'azione Rennie Harlin, con Sylvester Stallone nelle vesti di sceneggiatore e anche di protagonista assoluto, al fianco di un altro grande vecchio come Burt Reynolds, un film ambientato nel mondo della Formula 1. Sentiamo la clip. Insomma, ti hanno rimesso in sella, e perché? Sono già in tanti a intasare la pista. Forse c'è chi pensa che posso fare di più. Davvero? Certo. E lo pensi anche tu? Io so che la volontà può fare miracoli. Ed era un miracolo anche quello che è successo a Detroit? Beh, gli incidenti capitano. Incidenti? Ma se mi hai quasi ucciso. Senti, boh, sono passati 4 anni e ora, vedi, io sono un altro, sono molto cambiato. Tu non potrai mai cambiare. Durante il campionato mondiale di Formula 1, il giovane Jimmy Blah infila una serie di vittorie mettendo in ombra il campione Bo Brandenburg. Perso il controllo dei nervi, a Jimmy occorre qualcuno capace di guardargli le spalle durante le gare e che lo aiuti a scalare la classifica, e per questo proprio viene chiamato in scuderia. Giotanto, il veterano, si ritroverà in primis ad affrontare la micidiale macchina di marketing e pubblicità che sta compromettendo il talento in erba. Malamente sceneggiato dallo stesso Stallone, l'adrenalinico film sulle corse, diretto dal veterano Rennie Harlin, che aveva già diretto Stallone in Cliffhanger, arriva in Blu-ray grazie a Warner Home Video, di eccellente qualità di immagine, buona traccia Dolby Digital multicanale in italiano, purtroppo identica alle DVD, cioè sicuramente superiore all'originale DTS ad alta risoluzione in inglese. Come extra segnalo scene tagliate commentate da Stallone e c'è anche presente il commento al film dello stesso regista. Beh, un paio di cose da dire su questo film ci sono ancora. Una che intanto non è Formula 1, l'ho detto io, l'hai detto tu Claudio, Formula ma in realtà Indy, Formula Indy, esatto, sì, la Champ Car, che è insomma una categoria tutta americana, ma sembra molto la Formula 1, dobbiamo dire. E poi che curiosità, in 2 scene del film compaiono gli ex piloti di Formula 1, Jean Alesi, grande amico di Sylvester Stallone, e Mario Andretti, e poi anche molti giovani allora piloti come per esempio Juan Pablo Montoya. Insomma, un film che per gli appassionati di motori sicuramente non può mancare. Tra l'altro fu l'ultimo film doppiato da Ferruccio Amendola, almeno nella fase iniziale, poi purtroppo Ferruccio Amendola scomparve e fu sostituito da Massimo Corvo nel doppiaggio di Sylvester Stallone. Grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana con l'On Video. Ciao, a presto. E siamo arrivati alla fine della puntata con la nostra sigla in sottofondo. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, come sempre, aperta anche tutto il mese di agosto, La Rosa Purpurea Radio 24. Cliccate mi piace, unitevi a noi anche per essere informati durante questa calda estate delle novità cinematografiche, delle classifiche e ascoltare in podcast la puntata. Io ringrazio Carmelo Lauricella che ci ha assistito in regia, Giorgio De Luca invece in redazione. Vi do appuntamento alla prossima settimana, come sempre, sabato alle 18, domenica alle 15. Un saluto da Franco D'Assisi.